Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Continueremo da questo momento alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, teniamo sottofondo, anzi ho sfumato proprio questo brano che sono i Behind Enemy Lines ed è un brano che ormai dura, diciamo, nei mesi come sigla di questa trasmissione radiofonica che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Anche oggi in diretta 26 febbraio 2025 continueremo con il programma fino alle ore 21:30, tutto questo grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Andiamo ora all'ascolto di un brano di questa band newyorkese che sono A Place to Bury Strangers e che praticamente hanno fatto uscire una compilation di varie loro tape e l'hanno pubblicata su vinile che si chiama Rare and Deadly, come già detto A Place to Bury Strangers. La la la la. Bentornate e bentornati all'ascolto di Zerbins Magnetics. E allora, per chi ha ricevuto così la promo della puntata di questa sera, parlavamo di alberi, parlavamo di appunto di alberi morti, di alberi ammazzati dall'esercito israeliano, parliamo della Cisgiordania e però anche appunto questo buon proposito degli umani di imparare dagli alberi e di persistere insomma nella volontà di crescere di nuovo. Questi alberi sono gli ulivi di Sebastia, che è una località della Cisgiordania settentrionale che sta vivendo una seconda Nakba, e la storia di questi alberi appunto sradicati, bruciati, bombardati dall'esercito israeliano dimostra che la guerra di Israele si estende fino alle radici, letteralmente fino alle radici della terra, e appunto individuando negli ulivi, che sono insomma la linfa vitale della società e dell'economia rurale palestinese, facendo degli ulivi, dicevo, un bersaglio in prima linea. Parleremo di Palestina, di Gaza, di Cisgiordania, di varie questioni, e daremo spazio anche a dei racconti di testimonianze di giovani palestinesi. Prima di entrare in merito a questo, io volevo proporvi così alcune riflessioni di Raya Abdullah, che è un ricercatore palestinese però della diaspora, mi sembra che stia negli Stati Uniti, sulla questione del disarmo, no? Cioè della pretesa praticamente da parte di Stati Uniti, ma non solo, comunque di tutto l'Occidente e di Israele, la pretesa che disarmare la resistenza palestinese come prerequisito per la ricostruzione di Gaza. E lui appunto, Raya Abdullah, è molto critico rispetto a questa ipotesi, e però ne fa anche un'analisi secondo me molto semplice, essenziale e molto giusta. Appunto, ci dice: se gli Stati Uniti e Israele chiedono esplicitamente che la resistenza palestinese si disarmerà come prerequisito per la ricostruzione di Gaza, costringendola a scegliere tra la sopravvivenza biologica della società palestinese e la sopravvivenza della causa palestinese. Sebbene le richieste di disarmo siano presentate come un prezzo ragionevole per mitigare le condizioni apocalittiche a Gaza, in realtà mirano a portare a termine l'opera di pulizia etnica. L'obiettivo non è solo quello di eliminare il costo dell'occupazione israeliana, ma anche di intensificare il processo di insediamento coloniale volto a eliminare i nativi a tutti i livelli. Per i palestinesi accettare il disarmo significherebbe un suicidio nazionale. La resistenza dei palestinesi di Gaza di fronte a questi orrori ha portato il colonizzatore a cambiare strategia verso lo sfollamento morale e psicologico. È qui che il colonizzatore impiega tattiche di controinsurrezione incentrate sulla popolazione, incluso il genocidio, per eliminare l'infrastruttura popolare della resistenza armata. Questo è il motivo per cui il 7 ottobre è stato visto come una minaccia esistenziale per Israele, poiché ha dimostrato che oltre 75 anni di pulizia etnica sistemica non sono riusciti a uccidere la volontà, l'immaginazione e la capacità dei nativi di resistere e rifiutare la cancellazione. Di conseguenza, il processo sionista si è trovato di fronte alla cruda consapevolezza che i palestinesi di Gaza non sono stati piegati, nonostante 17 anni di blocco, accompagnato da una prigione a cielo aperto ad alta tecnologia e da una dieta a calorie controllate. Gaza ha infranto il mito del nativo sconfitto, dimostrando che i palestinesi sono agenti politici resilienti, capaci di lottare per la propria libertà e liberazione. In sostanza, questa campagna di smilitarizzazione mira a privare i palestinesi della volontà e degli strumenti per resistere alla loro sottomissione, rendendoli esseri biologici, privi di diritti o aspirazioni politiche. Però, di fronte a una struttura permanente di eliminazione, la resistenza armata diventa una necessità strutturale per la sopravvivenza, sia fisica che emotiva. Quando vengono resi subumani attraverso una retorica disumanizzante e la violenza fisica, i palestinesi, come tutti i nativi colonizzati, rispondono ripristinando la loro umanità e affermando la loro capacità politica attraverso la resistenza. La resistenza è una necessità fisica e psicologica per la sopravvivenza. Il disarmo non è solo una decisione di smettere di resistere, è la cancellazione della rivendicazione dei nativi sulla terra che garantisce a Israele la totale legittimità e autorità sulla terra e sulla vita della popolazione nativa. In definitiva, rinunciare al diritto di portare armi di fronte a un processo di eliminazione violento e permanente significa arrendersi completamente al destino segnato dal colonialismo di insediamento. E conclude questo ricercatore palestinese facendo un richiamo al film Uomini sotto il sole di Ghassan Kanafani, che appunto è la storia di questi rifugiati palestinesi che tentano, insomma, la fortuna, diciamo, facendosi trasportare da una cisterna, da un'autocisterna, e però muoiono perché al confine praticamente i soldati intrattengono l'autista di questa autocisterna più del dovuto, cioè più dei minuti di resistenza possibile sotto il sole, e quindi muoiono. E appunto ci dice Raya Abdullah, simile alla storia dei rifugiati palestinesi di Uomini sotto il sole di Ghassan Kanafani, soffocati silenziosamente in un'autocisterna perché troppo spaventati per bussare ai muri, i palestinesi oggi si trovano ad affrontare una realtà simile. O continuano a bussare ai muri finché non ottengono la liberazione, o muoiono silenziosamente. Bevande energetiche, sigarette e Molotov. Nelle vite degli adolescenti palestinesi della Cisgiordania. M tira brevi, veloci boccate da una Winston blu, accompagnando ogni tirata con un sorso dalla lattina di XL, una bevanda energetica. È sprofondato in uno dei molti divani che arredano il soggiorno di casa sua. La televisione, che si estende quasi sull'intera parete, manda una rotazione di video musicali di inni rap palestinesi della sua generazione. M recita il testo, le sue braccia e la sua testa vanno al ritmo un po' più veloce di quello che la musica richiederebbe, come se fossero incatenate a una, in una battaglia con Shabzdid e Dabur, come se ognuno di loro cercasse di sparare fuori i versi uno prima dell'altro. اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بنضرب حرب الليلة ما منغلب بدك شبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا نحل اللغز رنيت على نفحة وكله بخش وقت شفنا وياما وكله بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان بنفقع بوف نعمل لك حفلة تخش تنط نستقطب مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص استجدع دايما ووعك بوحش انا ادرينالين فاجع بشباب ينضر بالغاز احنا الجدعان مش زي نجلي رد بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبه وبدها سلام سيبك من روح واحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكه وصحابي ملان في الجلمه نشنع نعمل غلبه تجينا يا خالي بناخد العتبه تخوف بالليل ندوي لك عتمه بس شوف تنساش انا زي النو سلاح فتاك في بغز رجال تحفر انفاق ترجع بشوال وملان اشلاء بلاجين بلاجين بلاجين بلاجين بلاجين. Il video musicale della canzone In Anna fu girato proprio dietro l'angolo a Bir Nabala, pochi minuti a piedi da dove ora siamo seduti. Sullo schermo un gruppo di giovani, di giovani per lo più vestiti in nero e qualcuno con le facce travisate, guardano dritto nell'obiettivo. Dietro di loro si estende il gigantesco muro di cemento dell'apartheid che divide Gerusalemme in due, separandola da Bir Nabala, Jedira, Jib e molti altri paesi e cittadine. Siamo nell'ottobre 2025, proprio appena prima del cosiddetto cessate il fuoco, appena prima che il cessate il fuoco fosse annunciato. L'escalation dei tentativi genocidiari sionisti a Gaza è ancora in corso, così come la repressione inaudita e la campagna di arresti in Cisgiordania, particolarmente nelle aree come queste, nella Gerusalemme del Nord. Fino a circa 25 anni fa era semplice raggiungere la città vecchia di Gerusalemme da qui. Ora il passaggio è sbarrato. M, 15 anni, dice che è riuscito a visitarla solo perché ha saltato al di là del muro di apartheid più di una quindicina di volte, dice, per riuscire a vedere i suoi amici e la moschea di Al-Aqsa. Nessuno sa esattamente quante persone sono state uccise saltando oltre il muro, ma le storie abbondano. Non hai paura? Chiediamo. No, non proprio. Qualche volta, dice in inglese. Nus nus, e sarebbe il 50-50 in arabo. Nus nus, risponde e ride. In An fu realizzata nell'aprile 2021, appena le rivolte palestinesi erano iniziate a Gerusalemme, la cosiddetta Intifada Unita. è scoppiata in risposta ai tentativi sionisti, all'escalation di tentativi sionisti di cacciar via le famiglie palestinesi da Sheikh Jarrah, dal quartiere Sheikh Jarrah. Quando quelle famiglie hanno tenuto duro praticando il Sumud, Shabdid e Dabur hanno chiesto, e se il tempo della rivolta fosse finalmente arrivato, la canzone si diffonde nelle strade di Gerusalemme e oltre, concorrendo così ad accendere il movimento guidato dalla gioventù che dichiarava di essere pronta ad affrontare l'occupazione a testa alta. Questa gioventù erano definiti da una parola che si erano autoscelto, diciamo, Dod. M sta in piedi per spiegare quello che significa Dod. Indica la tuta, la sua tuta, i suoi pantaloni neri, la sua felpa nera, punta, insomma, fa vedere le sue scarpe da ginnastica pure nere, e punta e fa vedere anche il cappuccio nero, fa vedere le XL, la bevanda energetica e le sigarette in mano. Questo è Dod, dice. Il termine deriva dall'appropriazione di una parola ebraica che significa zio. Diciamo a M che vogliamo incontrare il resto della crew. Sentir dagli altri Dod com'è crescere in questi villaggi, in questi paesi. Se poco dopo prende sul telefono e registra un vocale: ragazzi, venite da me e stiamo facendo un'intervista. Due ore dopo il cortile di M si riempie, circa 10 ragazzi dai 14 ai 19 anni si affollano, per lo più vestiti come se fossero pronti a girare un video musicale con Shabdid Dabur. Tutte firmate e occasionalmente qualcuna anche contraffatta. Si sorridono uno con l'altro, qualcuno siede in cerchio, altri stanno in piedi, troppo carichi di energia per star fermi. Sono adolescenti e si comportano da tali. Così, scappellotti scherzosi sulle spalle, sul collo, risate, tirar calci al pallone e scorrere lo schermo di video TikTok. Non è semplicemente l'abbigliamento che rende Dod un Dod, dice M. Ci sono regole. Regola numero uno: non devi aver paura di nessuno, spiega. Regola numero due: devi avere amici, anche i tuoi amici devono essere Dod. Regola numero tre: devi fare quello che vuoi fare senza tener conto di quello che gli altri dicono, eccetto Dio. Non siamo meglio della gente di Gaza. Noi potremmo essere loro, loro potrebbero essere il nostro posto, non ci sarebbe differenza. M spiega che lui e la sua generazione vede la cultura Dod come libertà e resistenza, rifiutare di essere oppressi senza reagire. Un gruppo che difende il suo paese, la sua città, le sue strade. Uno dei ragazzi cita un verso del Corano il permesso di reagire è concesso a quelli che vengono attaccati, perché essi sono stati, hanno subito un torto, e Allah è veramente il più capace di aiutarli a vincere. Intorno a lui gli altri annuiscono. Questi ragazzi considerano loro responsabilità affrontare l'esercito sionista durante nelle invasioni ripetute dei paesi di Bir Nabala, Jedira e Jib. Sono tutti i quartieri attaccati a Gerusalemme, diciamo. Lo scorso settembre il regime sionista ha predisposto un'operazione massiva, un'operazione estesa in mezzo a questi paesi e nei dintorni, imponendo coprifuoco, invadendo le case, chiudendo i negozi, emettendo ordini di demolizione, revocando permessi di lavoro e incarcerando e attaccando le persone. Queste misure erano forme di punizione collettiva dopo che due giovani dei dintorni, dei paesi di lì intorno, Kattana e Kubeiba, due giovani hanno sparato e ucciso sei coloni a Gerusalemme prima di essere uccisi loro stessi. L'attacco, il primo realizzato da palestinesi nel 2025, seguì un intensificarsi della campagna israeliana nell'intera Cisgiordania, il che fu segnato dall'arresto di migliaia di persone, dalla chiusura, dal blocco, diciamo, dei paesi e delle città, dal proliferare di centinaia di nuovi posti di blocco e dalla distruzione e lo sfollamento forzato dell'intera popolazione dei campi profughi di Jenin, così come di quelli di Tul Karem e Nur Shams. Israele ora, nel silenzio, sta cancellando questi campi dall'esistenza come parte del suo tentativo più grande di mettere fine alla questione dei rifugiati palestinesi. تنزل عصافير وبرف 20 اسرار تحكيش انت هي كبرت وقع بالبير عدينا المر ما فضلش كتير ودخل السور ملين سكوك بتفوت منهم تطلع من ضوض عنا بالقدس مرفض عرصوت لواحد في كمين زلت الاغراض جيش بالحرم بضرب مطوط شديت التيك ضرب ننزل بوط على الارض تدعيش بدي لصفوب متضرف قراص نسيت شو صوت دخل السور ملين سكوك بتفوت منهم تطلع من ضوض عنا بالقدس مرفض عرصوت لواحد في كمين زلت الاغراض جيش بالحرم بضرب مطوط شديت التيك ضرب ننزل بوط على الارض تدعيش بدي لصفوب متضرف قراص نسيت شو صوت انا نجم السيل انا كحل الليل انا سد للسيل انا اغمى كبير انا اسوأ جلوي جهت الويل انا حد السيف وضرب ما بزيع فج الريح انا اصلي منيع مخزن سريع بضرب ما بخيب خد درس جديد لتعيش استاذ ركز بالجاي دقيقة بلقط انفاس ركز معي تنساش الرفوق ولكن حطوط سموي كثور عشان لي رقبع والصحب وقف اقعو طور رصص بالسوق انا شفت الصور شباب صغر روحت بدي نرقم دق مسمار سمو الخديور رموا الحطوط وشروا شحطات بلطات في الجطوط بلطات في الجطوط Quando i soldati sono entrati a Jib, M e i suoi amici, pure M e i suoi amici erano là. Hanno messo su il passamontagna e si sono preparati a difendere i loro paesi contro uno degli eserciti armati in maniera più esasperata del mondo. Le loro armi sassi e molotov fatti in casa, molotov autoprodotti. Abbiamo aspettato fino a quando i soldati aprono la jeep, aprono la portiera della jeep in modo da poter lanciare la molotov dentro, dice M. Quello è l'obiettivo. Chi vi ha insegnato a farle? Anzi, chi ti ha insegnato a farle? Chiediamo. M sorride e dà una pacca a uno dei ragazzi dietro di lui, che risponde con un sorriso di consapevole, ecco, di risposta, dai. E a te chi ha insegnato? Nessuno, risponde. Ha imparato per conto suo. È facile, continua. Tutto quello che, cioè, basta avere la benzina, una bottiglia di vetro e uno straccio per far partire il fuoco. E ho iniziato lanciando una molotov sul muro. Ero con qualche amico, con alcuni amici, e quando l'abbiamo lanciata la bottiglia è rimbalzata indietro e mi sono bruciato i vestiti praticamente. Allora chiediamo se non hanno paura un giorno di andare a un giorno diventare martiri dopo essere caduti nelle mani dell'esercito sionista, dato che succede a così tanti palestinesi. Non è proprio una domanda leale, forse è impossibile rispondere sinceramente in mezzo agli amici, ai propri amici. No, rispondo rapidamente, subito, insomma, molti di loro. Inshallah, sarà la volontà di Dio, qualcuno aggiunge. Perché? Chiediamo. Per andare in paradiso, risponde. Quando vedo i video da Gaza, credo che non siamo né meglio né peggio della gente di Gaza. Potremmo essere al loro posto e loro potrebbero essere al nostro. Dovrebbe essere nessuna differenza, non c'è nessuna differenza, ecco. La conversazione continua. No, scusate. Quando vedo i video che vengono da Gaza, dice un altro, sento di dover fare qualcosa. Dico ai miei che un giorno mi uccideranno. Sarà la volontà di Dio, un giorno sarò martire. La conversazione continua, i loro telefoni passano di mano in mano, mostrando video dei ragazzi che della stessa età che vengono colpiti, qualcuno ucciso in maniera spietata, le altre immagini di jeep avvolte dalle fiamme, gli adolescenti che si scontrano con soldati armati fino ai denti, ridono indicandosi l'un l'altro con orgoglio, come a spiegare chi era chi nel filmato che ora stiamo guardando. Il più giovane del gruppo, 14 anni, dice: sarei triste di morire perché mia madre ne sarebbe addolorata. Questa è la cosa più importante per me. Un altro dice: se mi uccidessero avrei solo paura che loro distruggeranno la mia casa e prenderanno mio papà e mia madre. Quello è quello che ne penso in proposito. Allora mi mostra un altro video girato da uno di loro a Jedira. Un soldato punta l'arma, guarda direttamente nell'obiettivo della telecamera. ci rivolgiamo a M, che è rimasto in silenzio per questo po' di tempo, gli occhi fissi sul telefono, sullo schermo del telefono. Sei preoccupato? No, prontamente, dice prontamente. Penso che avrò una morte serena, molto serena, e sarò in una vita all'altro mondo, diciamo, una vita molto serena. Uno dei ragazzi più grandi ci guarda dritto negli occhi e dice: qui tutti amano la vita e vogliono vivere, ma quando vedi intorno a te tutti che stanno morendo, qual è il senso della vita? Non è giusto che noi continuiamo a vivere mentre i nostri fratelli e i nostri amici stanno morendo. Quanti dei vostri amici sono stati uccisi? Chiediamo. Allora loro rispondono uno per volta, uno a uno, ecco. Due, dice il primo, due, dice un altro, due, tre, uno, due, cinque, due, tre, tre, dice il più giovane, otto, dice M, otto, e li elenca in modo che noi possiamo, insomma, non abbiamo dubbi che stia dicendo la verità. L'aria nel cortile sta cominciando a diventare tesa, non perché è difficile per questi giovani parlare della morte o ricordare gli amici che loro hanno perso, che hanno perduto nell'occupazione. Loro continuano in realtà a comportarsi come gli adolescenti che sono, ridono, continuano a scorrere lo schermo, desiderosi di concludere l'intervista, così avranno abbastanza tempo per continuare a andare a giocare a pallavolo. La tensione viene da qualcosa di completamente diverso, il rendersi conto di quanto banale, quanto ordinaria sia tutta questa situazione. Seduti qui è impossibile non sentire che potremmo in effetti vedere, avere davanti il prossimo adolescente che diventerà martire della Palestina. Tre settimane dopo quella sera nel cortile di M, la premonizione diventa realtà. Ognuno dei ragazzi aggiunge altri due nomi all'elenco personale di amici diventati martiri. Ora loro sono diventati 4, 4, 4, 5, 3, 7, 4, 5, 5, 10. Mohammad Rashad, uno dei ragazzi che sedeva con noi quel giorno, è stato assassinato dai soldati sionisti il 7 novembre 2025, insieme al suo amico Mohammad Atim, entrambi sedicenni, entrambi da Jadira. I soldati hanno sparato e sequestrato i loro corpi, limitandosi a comunicare le loro morti al mattino seguente. In un video pubblicato dall'esercito, si vedono i ragazzi lanciare quello che potrebbe essere una Molotov al muro dell'apartheid nel momento in cui vengono colpiti a morte, lo stesso muro che serve da sfondo a Inan, il video con cui siamo partiti nell'articolo. Più di 70 giorni più dopo, nonostante i tentativi delle famiglie, i corpi non sono stati ancora restituiti ai familiari. Le autorità israeliane dicono che il motivo di continuare a sequestrare le salme è, fra virgolette, politico. Secondo quanto riferisce un membro delle loro famiglie, quando chiedemmo a Mohammad Rashad quella volta nel cortile di M che cosa significava godersi la vita, la sua risposta fu rapida, fu molto breve. Resistere, disse, che noi possiamo resistere e rimanere qui. Porte l'uniforme, bien sûr que tu valides. Si tu suis les ordres, ne viens pas jouer ta victime. Quand tu portes plainte, on sait que tu cherches le mobile, que ta mère des comptes à cramer, tu sais que t'as buté un civil. Je te vois plus d'un hypocrite, pas la décence d'assumer. C'est fautif, mais tu préfères charger les morts et leurs familles. Pour nous les perquises, les sentences à la va-vite. Pour eux les classes sans suite, et ce crâne de médaille du mérite. Lanceur d'alerte, tribunal, comparution immédiate. Y'a rien à faire, ton bagage n'est pas adéquat. Nous l'ennemi de la nation, on cristallise l'attention. Je veux la liste des laxistes, chez les paveux commis d'office. يدوش لا ميداي وحنا نحسبو في لي موار فوق على ديكور صحي البيطاي بلي رومور كارو ديطاي وشاف الكوان تنتسنى الاذان عدا بالبوفري نسمعو كي بين نطرقاو السندان يا زدنا في طروش بلاد السيم وشفنا الويل يا ضربنا طويل على ليزاني مود اور ويل المخزن يميل شكون يزعم يضربو بنص يا قطع الحس غالي دوي عندك الضغط Pour nos agités dans les mains de la préventive, pour nos hérésies qui désertent la République. Belle punk, mort, pas je l'ai, fuck, E stiamo ascoltando adesso questa band francese, i Krautrock, dal loro album Pirate Party, e rimaniamo ancora appunto con i Krautrock. Je peux pas gérer vos différends. Demain c'est tous ensemble et ce quelle que soit ta nuance. C'est bien que l'attention fratricide, c'est notre maillon faible. Inattendant que ça, c'est sûr, sans toi, c'est la défaite. Je t'attrape par les cornes, prends la bête à bras le corps. J'attaque féroce, j'attaque en bloc, j'arrive qu'à des corsos sur ton carrosse. J'emmerde le cours d'outil à la panique, garde du mercenaire dans l'arène. Plus rien n'arrête les gamins de l'action directe. Pour défendre, pas tout contrôler la place. Pour ne pas tout laisser faire, parce que la rue c'est notre affaire. Chacun son rôle dans un ordre de contrôle. Tour de garde, appel en fort, de partout débarque la masse et la masse de son visage. Πλόγα πάντα αραμένη. Οι δρόμοι παίρνουνε φωτιά και φταίνε εξεγερμένοι. Ανάσα ελευθερίας και ασπέας μου εγαμένοι. Στο τέλος ο χαμένος όλα πίσω θα τα παίρνει κι είναι δρόλια μπροστά μας βήμα βήμα να το πάμε. Αντιχούν στην καρδιά μας όλα αυτά που δεν μιλάμε. Με ψηλά τα καπνογόνα και σφιγμένες στις γλωθιές. Που δώσεις, που δώσεις φωνάζουνε οι γειτονιές. On part à l'accable, on passe par à table. De tous ces jeunes instables, les problèmes d'un cartable. Le chemin c'est tout droit, j'ai cassé le clignot. J'ai remis mon foulard au milieu des chiros. De la nuit en plein jour, de la pluie en plein four. De la vie en parcours, la magie en un tour. Dans le bruit acide qui touche en plein cœur. On repeint toute la ville à l'extincteur. αυγή που ξυπνά το σκληρό πυρηνά. Είναι τα παιδιά σου οργισμένα αυθινά. Η ενστολή καταστατική μηχανισμή αλεύθουν σώματα. Αγκαλιασμένοι μες στα χαρακώματα. Πάτω να τα ακούς η γειτονιά δυνατά. Η γειτονιά να δει πως είναι αδυνατά δυνατά. Τραγούδισε το κάθε τα παράθυρα ανοιχτά. Όταν το ραπ μετράει πάρες δεν μετρά με ζητά. Un saluto a tutte e a tutti voi che siete in ascolto di Zardins Magnetics, che in questa puntata del 26 febbraio 2026, in questa precedente intervento ho così in maniera un po' a bestia letto direttamente dall'inglese questa questo articolo, chiamiamolo, che è uscito il 21 gennaio 2026 su un questo sito che si chiama Mondo Vice, News and Opinion about Palestine, Israel and the United States. Non so dirvi altro a proposito di questo sito, ma non ha importanza, perché l'interesse era appunto nel fatto che descriveva così, con un metodo abbastanza di drammatizzazione del reale, no? Diciamo così, documentaristico, ma anche con un metodo che permette insomma la confidenza con l'oggetto della ricerca. E gli autori sono due giornalisti portoghesi, Rafaela Cortés, Ricardo Esteves Ribeiro, e comunque l'invito è andarsi a vedere proprio l'impaginazione dell'articolo, perché c'è anche un corredo di fotografie e di video. E inoltre quelle che io ho saltato sono i brani i versi, diciamo, i versi del testo della canzone, no? Che diventava un po' ridicolo leggerli, e sono stati mandati in audio invece, e niente. Ho detto quello che penso insomma di questo articolo qui, e dove appunto a noi interessava non fare l'apologia del gioventù, ma comunque evidenziare quelle che sono la realtà di essere del passaggio all'età adulta, diciamo così, appunto come dice il sottotitolo che prima nella concitazione ho saltato, incontriamo la generazione dei giovani palestinesi della West Bank, che appunto i quali hanno questo passaggio all'età adulta, mentre il genocidio, appunto, sono testimoni del genocidio di Gaza. E quindi mentre Israele sta assassinando i loro amici, e quindi, qual è quindi la realtà di questo passaggio all'età adulta nella situazione in cui sono posti questi ragazzi, non cambia in realtà da quella, è solo un po' più ovviamente intensa, accelerata di tutti gli altri loro simili, fatta di sì, è giusto, di rabbia, di frustrazione, ma anche di fantasie che hanno loro di proiettarsi, no? Nell'avvenire, perché non essendo la loro fase della vita in cui ci si proietta nel futuro, e quindi hanno fantasie e hanno speranze e hanno anche momenti di, nonostante tutto, di leggerezza e dei ritorni, diciamo così, nella loro, sì, a casa loro, in senso lato, anche se la loro casa è sotto minaccia, diciamo così. E questo che ci interessava comunque è un filo conduttore, un filo conduttore di non solo, voglio dire, dei giovani ragazzi così che si scontrano con i soldati dell'IDF, ma che li ha sempre accomunati, nel senso che accomuna anche quelli che li hanno preceduti e quelli che li seguiranno, immagino io, ed è un'intensità che è molto preziosa e va tenuta da conto. Sì, dopo questo, appunto, così racconto delle intensità dei giovani Dodd o Shebab, anche come venivano chiamati qualche anno fa, non so se si può dire, insomma, sono due definizioni analoghe, ma comunque questa gioventù appunto che non accetta, che per la quale godersi la vita vuol dire resistere. E appunto nell'ultima parte, quando si parlava della morte di ulteriori due ragazzi e del fatto che i loro corpi sono stati trattenuti dall'IDF per molto tempo, insomma non venivano restituiti alle famiglie, questa sì, mi è fatto venire in mente, vabbè, così la cronicità, diciamo, di queste pratiche, no? Sono pratiche, quello del sequestro dei corpi, sono pratiche usuali da parte dell'esercito israeliano, da parte del potere israeliano, insomma, sui palestinesi, e sono proprio pensate per minare alla base, diciamo, la resilienza e il suo mood, nel senso che vanno proprio a colpire in maniera efferata, insomma, tutti le corde più delicate, diciamo, delle comunità. E tra l'altro questa pratica, diciamo, di far, ad esempio, di far scomparire le persone, ma scomparire nel senso proprio anche dell'identità, no? Cioè dei nomi, non solo dei corpi, è una pratica appunto che ha preso piede in maniera sistematica, scientifica, oserei dire, appunto nei mesi più letali del genocidio compiuto, che si sta ancora compiendo a Gaza. E appunto ci sono anche delle organizzazioni per i diritti umani che sono israelo-palestinesi, cioè quindi nelle quali lavorano insieme testimoni israeli, testimoni palestinesi di queste cose, e che ci parlano di queste situazioni. Appunto dicono che Israele li chiama non registrati e le famiglie invece li chiamano vivi da qualche parte, e le organizzazioni per i diritti umani li chiamano scomparsi forzati, nessuno li chiama per nome tranne le persone che si rifiutano di smettere di cercare. E appunto ci sono questi, cioè le persone più, gli attivisti che cercano di trovare poi queste persone, cioè di dare un nome a queste persone, di capire quello che è successo, e tra cui ci sono avvocati anche, e che appunto seguono questi casi di sparizione che riguardano soprattutto i bambini, tra l'altro, e dicono che appunto c'è questo un sistema costruito sul depistaggio, cioè anche quando l'esercito fornisce informazioni false, e questo lo fa per mettere, come dicevo prima, le famiglie in uno stato di permanente di incertezza e angoscia. Però Israele, cito direttamente dall'avvocato Khaled Kuzmar, Israele prospera su questa sofferenza, dice, fa vivere le famiglie nel tormento. I casi peggiori di queste sparizioni sono avvenuti nei punti di distribuzione degli aiuti statunitensi, dove le forze israeliane hanno regolarmente sparato proiettili letali contro folle affamate, appunto il sistema lì della fondazione umanitaria, no, per Gaza, maledetta. Coloro che non sono morti sono stati presi, poi sono arrivati i bulldozer seppellendo i feriti, i vivi e i morti. E appunto poi queste persone che vengono prese, questi bambini anche in molti casi che vengono presi, vengono incarcerati, poi appunto l'esercito dice che sono morti, poi non viene fuori invece da testimoni prigionieri che hanno condiviso la prigionia, appunto, che non sono morti, che li hanno visti, che hanno parlato con loro, eccetera, e insomma, quindi comunque vengono cancellati, ecco, diciamo, dal punto di vista giuridico, amministrativo, del potere, queste persone vengono cancellate, e invece appunto rimangono vivi nelle testimonianze. E un'altra cosa di sparizione che viene in mente, che così si può, sì, che è significativa appunto per questo intento di cancellazione totale, cancellazione anche delle tracce, quindi questo tentativo da parte del potere dello Stato di Israele di annientare proprio, no, le forme di resistenza, questa questione dei palestinesi assassinati ed evaporati, cioè assassinati attraverso le armi iperbariche, mi pare che si chiamano, che raggiungono, insomma, questi proiettili che raggiungono i 300 gradi Celsius, quindi che fanno praticamente evaporare i corpi umani, in quanto i corpi umani sono fatti dell'80% circa d'acqua, quindi con questi, nell'impatto con questi proiettili, questi sì, non resta più nulla, insomma, e quindi anche qui sono armi, sì, armamenti che vengono forniti dagli Stati Uniti, sono vietati tra l'altro, cioè non sono armamenti in uso, perché appunto internazionalmente, diciamo, anche dal punto di vista degli stati, vanno oltre, diciamo, la legittimità di armi usate in battaglia, e si contano almeno 3.000 persone, donne, uomini, bambini, eccetera, che hanno subito questa evaporazione. Quindi anche qui ci sono le famiglie che appunto improvvisamente non sanno più, non riescono più a rintracciare, ad avere traccia appunto dei loro cari, e quindi questo, come anche questa, è un modo anche di negare la morte, no, in fondo, cioè di proprio disumanizzare, ma devitalizzare, ecco, proprio in senso complessivo, la popolazione che resiste, che lotta per la propria liberazione, insomma, per rimanere, per stare dove sono, cioè nella loro terra. Stuck on this. Bene, intanto stiamo ascoltando i Poison Idea, da questa, diciamo, nuova ristampa dell'album Feel the Darkness. Take it for a little ride, but get stuck off on the side. siamo quasi, diciamo, in dirittura di arrivo per questa puntata di Zardins Magnetics. E io voglio, noi vorremmo lanciare questa importante appuntamento che si svolgerà venerdì 27 febbraio allo Spazio Buriana a Trieste, via del Bosco 12/C. DJ set per Stecco. Vado a leggervi il così la locandina di questo appuntamento. Poi venerdì 27 si torna a ballare per una giusta causa, con un piccolo benefit per Stecco, compagno triestino imprigionato nel carcere di Sanremo da oltre 2 anni dopo essere sfuggito alle maglie della repressione per altri 2. Oggi Stecco è rinchiuso nella sezione normale del carcere, ma il trattamento cui è stato sottoposto finora è del tutto speciale, come spesso accade ai prigionieri politici. Posta trattenuta, imposizione della videoconferenza invece del processo in presenza e via dicendo. Per riportare l'attenzione sulla sua situazione e quella di tutte e tutti i compagni e le compagne incarcerate, venerdì 27 dalle 18:30 gireranno i dischi di DJ Sordo e Michael Myers nello spazio di Via del Bosco 12C a Trieste, ovviamente, che loro non dimenticano mai di dimenticarsi di specificarlo. Stecco libero, tutte e tutti liberi, fuori tutti da galere e CPR, firmato Trieste Hardcore. Niente, questo insomma è un appuntamento importante anche per riportare, dare un messaggio chiaro, insomma, che noi non dimentichiamo nessuno dei compagni nelle mani dello Stato, ma soprattutto in questo caso nessuno dei nostri compagni di, insomma, vicini qui che vengono dalle nostre parti, anche se sono conosciuti oltre che in tutto lo stivale anche oltre. Comunque questo, ecco, DJ set per Stecco domani a Trieste allo Spazio Buriana. Just to get away. was still a boy. A chef, a short fucking boy, innocent. Who made us? Thanks, Mom. Thanks, Dad. I'll see you in bene, sfumo ormai questi ultimi secondi per questo brano dei Poison Idea, band statunitense dell'Oregon, e appunto i brani che abbiamo ascoltato siamo sono estrapolati da un album che si chiama Feel the Darkness, che è praticamente la ristampa di un loro album storico uscito molti anni fa, e ora appunto in versione così ristampata, così chiamata deluxe, insomma rivisti e rimasterizzati i brani. Ora invece passiamo, anche se mancano quasi 5-6 minuti al termine della trasmissione, andiamo all'ascolto di questa band tedesca, dal loro album uscito nel 2020. Loro sono gli Excellent e l'album è Beyond Remedy. Excellent. Bene, sfumiamo un po' questa band tedesca, loro sono gli Excellent, band dell'area di Hannover, e l'album che ci stiamo ascoltando era uscito nel 2020. Comunque riprendiamo dopo l'ascolto di questa band, anche se prima, ovviamente, dato che siamo al termine di questa trasmissione, che è il Tardis Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dal studio di Radio Onde Furlane, e appunto vi darò i contatti come sempre se volete scriverci. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e anche oggi 26 febbraio 2026 siamo qua, come già detto, dal studio di Radio Onde Furlane da Udine. E i nostri contatti, se volete scriverci attraverso la posta elettronica, potete farlo intestando a liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Questa trasmissione odierna, più quelle delle volte passate, potete riascoltarle nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, l'appuntamento quindi per il prossimo giovedì. Salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà in replica domani, venerdì, dalle ore 11 del mattino su Radio Eustachio, e nel pomeriggio dalle ore 17 su Radiazione. Queste due sono entrambe due web radio. Bene, vi lascio allora con un ultimo brano, più o meno quello che capita, perché ce l'abbiamo in sottofondo, gli Excellent, band tedesca, dal loro album datato 2020 che si chiama Beyond Remedy. Excellent. Stop!